The topic of our discorso, of our Dhamma talk this evening is the increase of knowledge, Panya Buddhi in the Pali scriptural language. Il discorso di questa sera è l'aumento della conoscenza, l'aumentare della conoscenza, quindi Panya Vitti. Vitti? Panya Buddhi. Buddhi. Buddhi. Increase growth of. However, before we get to that, we still need to finish off some aspects related to the previous talk from last night. Però prima di iniziare questo nuovo argomento, dobbiamo finire di trattare alcuni punti del discorso di ieri. And last night we elaborate, or we discussed, explored the relationship between wisdom and faith, Panya and Sadda. Ieri abbiamo esplorato la relazione che c'è tra Panya, la saggezza, e Sadda, la fede. And those two mental qualities ideally should be well balanced, of equal strength. Queste due qualità mentali devono essere, almeno idealmente, dovrebbero essere bilanciati, nel senso dovrebbero avere la stessa forza. And these two qualities appear among the five controlling faculties, the pancha indriyani. Queste due qualità compaiono nelle cinque facoltà di controllo, le pancha indriya. Control of the so we have the controlling faculty of faith, sad indriya, and the controlling faculty of wisdom, panya indriya. Quindi abbiamo la facoltà di controllo della fede, saddindriya, e della saggezza, panyindriya. These two controlling faculties of sadda and panya are praised by the wise only when they are well balanced, neither in excess nor in deficiency. E queste due facoltà, queste due qualità di Sadda e di Panya vengono lodate dal saggio soltanto quando sono in equilibrio, quindi quando non sono né in eccesso e né troppo deboli. In the development of faculties, faith and wisdom are to be balanced to avoid the extremes of blind ability or willingness to believe that that something is real or true. Quindi nel bilanciare queste facoltà, la facoltà della fede deve essere equilibrata, evitando di avere questo, diciamo, di essere troppo creduloni, di credere ciecamente alle cose senza riuscire a capire se sono vere oppure no. And also to avoid intellectual cleverness or cunningness. E anche di evitare essere troppo intelligenti in modo intellettuale, cioè di sentirsi particolarmente furbi intellettualmente. And Satna, the Venerable Hasi side of Satna Burma has Satna given some very useful explanations what is meant by wisdom that is excessive. Sayadu Masi Sayadu della Birmania ha spiegato molto bene che cosa si intende per questo eccesso della saggezza. And those explanations can be found in the manual of Satna Insight. È una spiegazione che si può trovare nel suo manuale dell'insight. And he says that those meditators whose wisdom is excessive may think and reflect quite often. E dice i meditanti che hanno la saggezza in eccesso riflettono e pensano tantissimo, molto spesso. And a meditator may wonder whether he or she is noting a physical or mental phenomenon, whether it is mental contact or feeling, whether one notes, labels an object effectively. Quindi un meditante può pensare, riflettere, chiedersi se sta notando un oggetto mentale oppure un oggetto fisico, se quello che sta notando è il contatto oppure se sta notando la sensazione, oppure può pensare, chiedersi se sta usando l'etichettatura in modo corretto e così via. And effectively. Labeling effectively. Se sta etichettando in modo funzionale. Whether one is experiencing its characteristic, its function, and so on. E se sta sperimentando le caratteristiche, le funzioni di un oggetto, eccetera. Or whether one is seeing its arising, disappearing, or impermanence, and so on. O se sta vedendo il sorgere o la scomparsa o l'impermanenza. Whenever such a meditator has a clear experience in practice, then he/she is likely to compare it with familiar scriptures. E ogni volta che questo meditante ha un'esperienza chiara nella pratica, inizia a confrontarle con degli eventuali testi o con le scritture. Or to compare the experience with one's own opinions or those of other people. Oppure inizia a confrontare queste esperienze con le sue proprie opinioni personali oppure con le opinioni di altre persone. However, as a meditator thinks about these things, he or she forgets to be aware of those very mental states of thinking and reasoning. Però quello che succede è che quando un meditante pensa a queste cose e ci riflette sopra, in quel momento si sta dimenticando di notare, di essere consapevole di questi stati mentali, del pensare e del ragionare. And also forgetting to be aware of other phenomena that are occurring from moment to moment. E si sta anche dimenticando di notare altri fenomeni che avvengono un istante dopo l'altro. So, to elaborate on this point just a little bit, our job as a meditator is to label, to observe and to know the prominent objects as they come along, beginning with the rising and falling, and not to get carried away by the thinking. Quindi vi ricordo che il nostro compito da meditanti è quello di rendersi conto di un oggetto, etichettarlo, osservarlo, conoscerlo, e nel momento in cui si presenta l'oggetto più predominante, senza essere trascinati via dai pensieri. And the Venerable Mahasisadha goes on to say, this is excessive analysis or reasoning that interferes with the noting. Quindi questa è un analizzare, è un ragionare eccessivo che interferisce con l'osservazione. And due to the power of equanimity, which is by nature balancing, faith and wisdom become balanced. E grazie al potere dell'equanimità, che per se stessa è un fattore equilibrante, allora la saggezza e la fede riescono ad essere in equilibrio. Such that neither faith nor analysis become excessive. Questo vuol dire che né la fede né le nostre analisi diventano eccessive, ne sono in eccesso. So, in the end, one just notes, observes, and tries to come to understand the nature of the arising objects without thinking and analyzing. Quindi dobbiamo cercare di notare, di etichettare, di osservare, di conoscere l'oggetto che sorge senza analizzare, pensare, riflettere. And as a result, one is able to label and clearly understand all mental and physical phenomena as they occur. E il risultato è che si è in grado di etichettare ed osservare correttamente gli fenomeni mentali e fisici mentre stanno avvenendo. Now, so this would be the case, or is the case for excessive wisdom. In the case of excessive faith, we have blind faith. Questo qua era il caso della saggezza eccessiva. Nel caso che la fede sia eccessiva, c'è una fede cieca. And whatever a teacher might say, or some other person might say, we just believe it. Questo vuol dire che qualunque cosa l'insegnante dica o dica a un'altra persona, noi ci crediamo ciecamente. And without really checking whether this corrisponds to our experiences in the practice or not. Senza davvero controllare se questo discorso che sentiamo ha una realtà effettiva nella pratica oppure no. And out of excessive faith, a meditator might end up bowing down to a Buddha statue, not just 3 times, but maybe even 6 times, or even 9 times. Se la fede è eccessiva, può essere che un meditante venga ad inchinarsi alla statua del Buddha non solo 3 volte, ma magari 6 o 9 volte. Or sit in front of a Buddha statue and tears rolling down the cheek. Oppure si siede davanti alla statua del Buddha e inizia a piangere, ci sono le lacrime dell'emozione. So we do want to ensure that in our meditation practice we remain as balanced as possible and our faith doesn't go overboard. Quindi noi cerchiamo di mantenere la nostra pratica bilanciata il più possibile e quindi che la nostra fede non vada oltre i limiti. And in terms of these 5 controlling faculties, well, they are so named because they exercise control in their respective domains. Le facoltà di controllo sono chiamate così perché esercitano un controllo sui loro rispettivi domini. And so in the domain of resolution, or the domain of resolution consists on the one hand side of faith and on the other hand on disbelief. Quindi il dominio della risoluzione, nel senso di determinazione, credo, è da un lato si tratta della fede, mentre il suo altro lato è il non credere. And then in the domain of exertion, in Pali given as bhaga, we have the 2 extremes. On the one hand side we have effort, and on the other hand we have laziness. Poi nel dominio, nel campo dello sforzo, da un lato abbiamo l'energia, l'impegno, dall'altro lato abbiamo la pigrizia. And in the domain of awareness, upadana, we have the 2 extremes of mindfulness on the one hand side and forgetfulness on the other hand. E nel campo della presenza mentale abbiamo da un lato la consapevolezza e dall'altro lato questa sorta di dimenticanza di essere presenti. And in the domain of non-distraction, we have on the one hand side concentration in the context of the Vipassana meditation that is known as Kanika Samadhi, momentary concentration, and then on the other end Satna there is Satna, the distraction. Nel campo della non distrazione abbiamo da un lato la concentrazione, che nel caso della Vipassana è la concentrazione momentanea, quindi Kanika Samadhi, e il suo opposto dall'altro lato, cioè la distrazione. And finally, in the domain of discernment, dasana in Pali, we have the two extremes of wisdom on the one hand side, and on the other end, ignorance or delusion. Nel campo del discernimento, dasana in Pali, c'è la saggezza da un lato e dall'altro c'è l'ignoranza o l'illusione. So these certain five controlling faculties then exercise control in the respective spheres of resolution, exertion, awareness, non-destruction and discernment. Quindi le cinque facoltà di controllo esercitano il loro dominio su questi campi della risoluzione, dello sforzo, awareness, della presenza mentale, della non distrazione e del discernimento. And in so doing, they help to overcome the opposites. E quindi facendo questo riescono a superare questi opposti, questi loro lato opposto. Now, to take our exploration just a bit further, the controlling faculty of faith in the texts that gets described as follows. And what, O retreatants, is the faculty of faith? Allora, nei testi la facoltà della fede viene descritta in questo modo. O meditanti, che cos'è la facoltà della fede? Here, the noble disciple is a person of faith, one who places faith in the enlightenment of the Tathagata, thus. Qui il nobile discepolo è una persona che ha fede e gli mette la sua fede nella illuminazione del Tathagata in questo modo. And thinking or accepting the Blessed One is an Arahant, perfectly enlightened, accomplished in knowledge and conduct. Pensando, accettando il fatto che il Tathagata, il Buddha, è un Arahant perfettamente illuminato e dalla perfetta condotta e conoscenza. Is fortunate, knowing of the world. Fortunate. Uh-huh. Fortunato. È conoscitore dei mondi, è sublime, elevato. Unsurpassed leader of persons to be tamed. Ed è una guida insuperabile delle persone che devono essere addestrate. Teacher of devas and humans. L'insegnante di uomini e di dei deva. The enlightened and the blessed one. Egli è il beato, un arant. Now, in the case of the controlling faculty of wisdom, the wording is as follows. Mentre riguardo la facoltà di controllo della saggezza, è come segue. And what is the faculty of wisdom? Here, the noble disciple is wise, possesses wisdom directed to arising and passing away. Qui il nobile discepolo è saggio e gli possiede la saggezza che viene diretta verso il sorgere e lo svanire. Which is noble and penetrative. Questa saggezza è nobile ed è penetrante. Leading to the complete destruction of suffering. Conduce la completa distruzione della sofferenza. And this is called the faculty of wisdom. Questa è la facoltà della saggezza. Now, the balancing of the faculties is basically an art in itself that needs to be developed over time. Allora, fondamentalmente questo equilibrare le facoltà è una vera e propria arte che viene raffinata, perfezionata con il tempo. And the Pali term for this is Indriya Samatha. In Pali il termine è questo, Indriya Samatha. Samatha. But it's not that other Samatha. No, non è come l'altra Samatha, però. So, this equilibrium is indispensable for the realization of the spiritual attainments, because when one faculty becomes strong and the others are weak, the weak ones do not perform their respective functions. Allora, questo equilibrio tra le facoltà indispensabile per la realizzazione, per l'ottenimento, perché se alcune di queste facoltà sono debole, deboli, non riescono a compiere la loro funzione. So if, for example, the faculty of faith is stronger than the others, then the faculty of energy cannot perform its function of exerting, the faculty of mindfulness its function of establishing. Quindi, per esempio, se la facoltà della fede è più forte delle altre, la facoltà dell'energia non riesce a esercitare lo sforzo, l'impegno, e la facoltà della consapevolezza non riesce a esercitare la sua funzione di stabilizzare. And the faculty of concentration cannot perform its function of not distracting. La facoltà della concentrazione non riesce a esercitare la sua funzione della non distrazione. And in the case of the faculty of wisdom, it cannot perform its function of understanding. E la facoltà della saggezza non riesce a compiere la sua funzione della comprensione. Now, the venerable Sadhu Upandita, in the past on occasion, pointed out that when the controlling faculties are well balanced, or once that they are well balanced, realization can happen quite quickly. E Sayadaw Upandita in alcune occasioni affermava che quando le facoltà di controllo sono bene equilibrate, allora la realizzazione può avvenire anche molto velocemente. However, as long as the controlling faculties are not properly balanced, then realization will not take place. Però, dato che spesso le facoltà di controllo non sono in un buon equilibrio, allora la realizzazione non riesce ad avvenire. And there were cases at the time of the Buddha of monastics who had too much faith or too much effort and therefore, or energy, and therefore couldn't attain the Dhamma, at least for quite some time. Ci sono stati riportati casi ai tempi del Buddha di alcuni monaci che avevano troppa fede oppure troppa energia e quindi almeno per un po' di tempo non riuscivano, non gli era possibile di ottenere la realizzazione. And now, when the mind is in proper shape, and then it would be in a position to come to know the true nature of formations. E quando la mente è nel suo stato migliore, diciamo più equilibrato, allora riesce a conoscere la natura delle formazioni. And the Digha Nikaya describes the qualities of such a mind, and then gives one example of what one might come to know. Il Digha Nikaya descrive le qualità di una mente del genere e poi anche descrive le cose che possono essere conosciute, come possono essere conosciute. And with mind concentrated, purified and cleansed, unblemished, free from impurities. Allora, con la mente che è purificata, limpida, senza gli inquinanti, senza macchia, pura. Workable. lavorabile, una mente lavorabile. And established. Una mente stabile. And having gained imperturbability. Che ha raggiunto l'imperturbabilità. When there directs and inclines one's mind towards knowing and seeing. E questa mente viene inclinata e diretta verso la conoscenza e la visione. This my body is material made up from the four great elements. Questo mio corpo è materialità composta dai quattro grandi elementi. Born of mother and father. Nato da madre e padre. Fed on rice and gruel. Nutrito da riso e un po' grano. Oh no, well, here it will be oatmeal. Porridge. Porridge, scusate. Impermanent. Impermanente. Liable to be injured and abraded. E soggetto ad essere danneggiato e ferito, rovinato. Broken and destroyed. Rotto e distrutto. And this is my consciousness. E questa è la mia coscienza. Which is bound to it and dependent on it. Che è legata ad esso e dipende da esso. And so what you have here, the things that get known, are nothing other than this discernment of mind and matter, and also seeing the interdependence between the two. Quindi vedete che le cose che devono essere conosciute sono questi fattori mentali e fisici e la interconnessione che c'è tra i due. Now, with such a concentrated, purified, cleansed mind, obviously, there are many more insight knowledges to be understood as one practices. Naturalmente, con questa mente che è concentrata, è purificata, è senza macchia, è lavorabile, ci sono molte altre conoscenze di insight che possono essere conosciute. And so this, the one described is just the first one. It's just an example. Questa che abbiamo descritto ora è soltanto la prima, è soltanto un esempio. Now, another aspect that is worth paying attention to, namely liberation and the hindrances, or differently put, knowledge and ignorance. E un altro punto su cui fare attenzione sono la liberazione e gli inquinanti, oppure la conoscenza e l'ignoranza. Now, based on the Patisambhita Magga, which is the path of discrimination, knowledge is said to be a cause of liberation for noble ones. Allora, nel Patisambhita Magga viene detto che la conoscenza è causa di liberazione per i nobili. Noble ones are liberated from the cycle of suffering by developing it. I nobili sono liberati dal ciclo della sofferenza sviluppandola. Now, on the other hand, ignorance is a hindrance to liberation. D'altro canto, invece, l'ignoranza è un ostacolo alla liberazione. When present, it hinders the noble one's realization of knowledge on the path to liberation. E quando è presente, ostacola la realizzazione della conoscenza dei nobili sul sentiero della liberazione. For this reason, ignorance is called a hindrance to liberation. Per questo motivo l'ignoranza è definita un ostacolo alla liberazione. And the Venerable Mahasiddhanta of Burma goes on to explain this in greater detail. Il venerabile Mahasi Sayadaw della Birmania spiega questo punto in gran dettaglio. And so by the term knowledge we mean all kinds of insight and path knowledge. Allora, con il termine conoscenza qua si indica tutti i tipi di conoscenza, di insight, delle varie conoscenze del sentiero. On the other hand, by ignorance is meant holding a wrong belief, like in the existence of a person, a being, a self. Mentre con ignoranza si intende quello di afferrarsi delle idee errate, come l'idea di un'esistenza, di una intrinseca, di una persona o di un sé. Holding a wrong belief in the existence of a God, of a Brahma, that create beings. O attaccarsi, afferrarsi all'idea che ci sia un Dio, che ci sia Brahma, che crea gli esseri. In the context of the insight meditation practice, this may cover all sorts of forms of delusion. Nell'ambito della meditazione di insight, questo tipo di idee cadono sotto l'ombrello dell'illusione. Now, by focusing our attention on the most prominent objects occurring in the body and in the mind, starting with the rising and falling movement of the abdomen, we gradually observe physical, we observe various kinds of objects, and in so doing we learn to discern between the two, mentality and materiality. Quindi, focalizzando la nostra attenzione sugli oggetti predominanti che sorgono mentali e fisici, iniziando da salire e scendere dall'addome, a un certo punto iniziamo a distinguere gli oggetti fisici da quelli mentali. And so, if previously we held the belief in a being, a person, man, woman, etc. Now, we no longer believe in that, but we rather see from direct experience that there are just those mental and physical phenomena occurring. Quindi prima avevamo questa credenza dell'esistenza di una persona, un uomo, una donna, mentre dopo, grazie alla nostra esperienza, vediamo che ci sono soltanto questi fenomeni che avvengono, fenomeni mentali e fisici. And by further exploring or carefully observing formations, we come to realize that certain formations are happening due to their respective causes. E poi, continuando la nostra esplorazione e l'osservazione delle formazioni, arriviamo a comprendere che queste formazioni avvengono perché hanno le loro rispettive cause. And we no longer believe that certain formations are happening due to some supreme being, nor by accident. Quindi non crediamo più che queste formazioni avvengano, si manifestino a causa di un essere supremo o che avvengano per caso. And so we come to see anicca, dukkha and anatta, and with that, or that satna then displaces the wrongful perceptions of permanence, micha sanya, of then happiness and sukha sanya, and the wrongful perception of a self. E quindi quando iniziamo poi a vedere anicca, dukkha e anatta, questo qua disperde l'illusione che le cose siano permanenti, niccia, sagna, e che le cose siano piacevoli, sukha, sagna, e che ci sia quindi un sé. And that would be atta-sagna. Atta-sagna. And then we further come to see ourselves in a very direct manner, that formations are rapidly arising and passing away, appearing and disappearing. E poi da noi stessi possiamo vedere che le formazioni stanno rapidamente sorgendo e scomparendo continuamente. And so, with every new insight that occurs, some wrongful belief gets removed. E quindi con ogni nuovo insight che noi comprendiamo, ci sono delle visioni errate, delle cose che vengono rimosse. And so noble ones are liberated from the cycle of suffering by developing all of the stages of insight, knowledge and experiencing Nibbana. E quindi i nobili vengono liberati dal ciclo della sofferenza sperimentando tutte queste conoscenze di insight e sperimentando e infine il Nibbana. In this way all of the various insights are called a cause of liberation. E in questo senso ognuno di questi insight è definito come causa di liberazione. A cause of liberation for noble ones. Una causa di liberazione per i nobili. And that being the case, we should exert ourselves to develop intuitive insight. E dato che le cose stanno così, noi dovremmo impegnarci nello sviluppare queste conoscenze di insight. Now, if one doesn't yet come to understand, let's say, mentality from or discern mentality from materiality, then one simply needs to keep on observing. E se non siamo ancora in grado di discernere la mente dalla materia, l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare nella nostra osservazione. So, not carefully understanding or not properly understanding the true nature of formations, then is sadness said to be a form of ignorance which does not lead to liberation and which is a hindrance to liberation. Quindi è il non comprendere la vera natura delle formazioni che è l'ignoranza e che questa ignoranza è un ostacolo per la liberazione. Now, in the absence of mindfulness, ignorance will occur moment after moment. In assenza di consapevolezza, l'ignoranza si manifesterà un momento dopo l'altro. And the ignorance and all the unwholesome mental states that typically go along with it tend to arise rather easily and have been compared to weeds. You don't have to do anything for weeds to prosper. E quando c'è l'ignoranza, c'è questa tendenza degli inquinanti che di solito si accompagnano all'ignoranza, c'è questa tendenza che gli inquinanti quindi sorgano in abbondanza. Infatti c'è questa similitudine con le erbacce, e che non bisogna fare niente di particolare perché le erbacce crescono da sole. Not understanding, out of ignorance, when the seeing process takes place, we think I am seeing. When the hearing process takes place, we think I am hearing, and so on. When in fact, certainly these are just functional processes. Ed è a causa della non comprensione, cioè a causa dell'ignoranza, che quando sta avvenendo un processo visivo o un processo uditivo, sorge il pensiero io vedo oppure io sento, quando in realtà quello che sta accadendo è soltanto un processo. So in other words, when the ignorance comes in, it knows the things in a conceptual ordinary way. Quando l'ignoranza si infiltra, le cose vengono conosciute in modo concettuale e convenzionale, molto ordinario. And the texts certainly say of ignorance that it conceals the true nature of objects. I testi dicono che l'ignoranza nasconde, cela la vera natura degli oggetti. When, however, we are mindful from moment to moment, then insight knowledge arises and we come to see the true nature of fetna formations. Però quando siamo consapevoli un momento dopo l'altro, la vera conoscenza può sorgere e noi possiamo comprendere la vera natura dei fenomeni. So, the observation of every object as it occurs is considered liberation through knowledge. Quindi l'osservazione di ogni fenomeno nel momento in cui avvengono, quando questo avviene, è considerata essere una a cause for liberation, una causa di through knowledge, una causa di liberazione attraverso la conoscenza. And each and every noting, amount noting and observation, amounts to the development of liberation. E ogni momento di osservazione, ogni momento in cui si nota, questo fa aumentare cosa? The development of liberation. Lo sviluppo della liberazione. So, to give an example here, if Fetna, let's say, a lot of anger is present in the mind, and we are mindful of it, one time, the anger will decrease just a little, a tiny little bit. If we're mindful of it a second time, it will decrease again, a tiny little bit, and over time that adds up, and it becomes less, and the anger gets less and less. Quindi per fare un esempio, se nella nostra mente è presente molta rabbia, se noi siamo consapevoli della rabbia per un momento, questa rabbia può diminuire di poco poco. Poi se siamo consapevoli un altro momento e un altro, questa rabbia può diminuire sempre di più. And so on the other hand, failure to label and observe objects, wandering thoughts are considered ignorance and are a hindrance to liberation. Invece se manchiamo di etichettare e di osservare gli oggetti, allora si infiltrano i pensieri, c'è una mente che divaga e queste cose sono degli ostacoli per la liberazione. So we want to work towards knowledge and not towards increasing ignorance. E noi vogliamo lavorare per aumentare la conoscenza e non l'ignoranza. Now, the texts discern various kinds of knowledge or wisdom, and there's wisdom spoken of as of one type, of one kind, wisdom spoken of two kinds, and so on. Allora, quando i testi parlano della conoscenza o della saggezza, alcune volte si parla della saggezza che è di un tipo, della saggezza che è di due tipi e così via. And so that which has the characteristic of penetrating objects, penetrating the inherent nature of objects, that in that sense wisdom is of one kind. Allora, quando si dice che la saggezza ha la caratteristica di penetrare la natura inerente degli oggetti, in questo senso è la saggezza intesa di un tipo. Now, wisdom is spoken of as of two kinds, namely, one thing is mundane wisdom, and the other thing is supramundane wisdom. Poi, la saggezza di due tipi è la saggezza mondana e la saggezza sovramondana. And so mundane wisdom in Pali is known as Lokiya Panya. And this satna covers all states of consciousness and mental factors arising in a worldling as well as in a noble one, which are not associated with the supramundane paths or fruitions. Allora, la saggezza mondana si riferisce a tutti i tipi di coscienza e di stati mentali che sorgono nelle persone e anche nei nobili, tutte queste coscienze e stati mentali che però non sono associati con gli stati sopramondani del sentiero e della fruizione. On the other hand, we have Lokotrapanya, which is supramundane wisdom. Mentre Lokotrapanya è la saggezza supramondana. And Tatnavnad covers the experiences of the four noble paths, the four noble fruitions, and Nibbana as number nine. E questa va a coprire le esperienze delle quattro nobili sentieri, delle quattro fruizioni e come nono c'è il Nibbana. So those are your nine supramundane things. E queste sono il gruppo delle cose supramondane. Now, when it comes to the development of knowledge or the increase of knowledge, then this can be described in the following way. Namely, there are the so-called the mental defilements, and those come in three grades, namely the latent or dormant mental defilements. Then we have the obsessive defilements, and then we have the transgressive defilements. Allora, quando si parla dello sviluppo della saggezza, si parla di queste cose. Ci sono gli inquinanti che vengono suddivisi in tre gruppi, ci sono gli inquinanti latenti, ci sono gli inquinanti ossessivi e gli inquinanti trasgressivi. And in terms of the transgressive defilements, those, transgressive in the sense of leading to physical or verbal transgressions, and those we overcome by taking upon us and then practicing the precepts. Allora, gli inquinanti trasgressivi sono gli inquinanti che ci portano ad agire delle condotte trasgressive con il corpo, con la parola. Questi possono essere superati prendendo i precetti. Then we have the obsessive defilements, which are not yet leading, or which are not yet transgressive. They're just happening in the mind. So the intention to do something unwholesome or to say something unwholesome. Gli inquinanti chiamati ossessivi sono presenti nella mente, però non sono stati ancora espressi tramite una trasgressione corporea o verbale. Quindi, per esempio, se c'è un'intenzione di fare o di dire qualcosa di malsano, di nocivo. And those obsessive mental defilements we overcome with the concentration, the training in concentration, samadhi, sikha. Questi tipi di inquinanti ossessivi vengono superati grazie alla concentrazione, quindi all'addestramento alla concentrazione. So, with the practice of the precepts, we can only cover the transgressive defilements, but not the obsessive defilements. And it's only with the training and concentration that we can overcome the obsessive defilements. The training concentration, however, is not sufficient to really reach and then uproot the latent defilements, and that is the work of wisdom, the training in wisdom, panya seka, in the Pali scriptural language. Allora, quindi gli inquinanti trasgressivi li possiamo superare mantenendo i precetti, però mantenendo i precetti questo non è sufficiente per superare gli inquinanti ossessivi a livello della mente, che vengono superati grazie alla concentrazione, però la concentrazione da sola non può andare a raggiungere gli inquinanti latenti nella mente. Questo può essere fatto soltanto attraverso un addestramento alla saggezza, Pagna Sicca. Now, the seven factors of enlightenment, the Buddha states, are makers of vision, makers of knowledge. Allora, i sette fattori di illuminazione, ci dice il Buddha, sono dei veicoli per l'illuminazione e la conoscenza. No, makers of vision. La visione. Vision and knowledge. Maker. Creano, portano in essere la visione. And they are further promoting the growth of wisdom. E promuovono la crescita della saggezza. And certainly they are free from vexation. Sono liberi dalla, cos'è la vexation? Vexation, oh. Sinonimo. Eh? Harass, yeah, that's good. Molestie. Quindi sono liberi, questi sette fattori sono liberi dall'essere molestati probabilmente dagli inquinanti, dagli stati non salutari. Annoyed, maybe. Eh? Annoyed. Sì, dall'essere non sono infastiditi, quindi dagli stati malsani. So, the enlightenment factors lead towards Nibbana. Quindi i fattori di illuminazione conducono al Nibbana. What seven? Quali sette? The enlightenment factor of mindfulness is a maker of vision, maker of knowledge, etc. Quindi il fattore di illuminazione della consapevolezza porta in essere la visione, la conoscenza, eccetera. And certainly the enlightenment factor of investigation of states, the enlightenment factor of energy, the enlightenment factor of joy, the enlightenment factor of tranquility, of concentration and equanimity. Poi c'è il fattore di illuminazione dell'investigazione degli stati, il fattore dell'energia, il fattore della gioia, della tranquillità, della concentrazione, della equanimità. And all of them are makers of vision, makers of knowledge, promoting the growth of wisdom. E tutti questi portano in essere la visione, la conoscenza e promuovono lo sviluppo della saggezza. And they lead to Nibbana. E conducono al Nibbana. And so in this way, they contribute to an increase of knowledge, Pagna Vuddhi in Pali. In questo modo contribuiscono alla crescita della saggezza di questa Pagna Vuddhi. Vuddhi. Now, at one point in the past, Elder Sariputta addressed the Blessed One and made the following statement, namely, all those Arahant Buddhas of the past attained to supreme enlightenment by abandoning the five hindrances. Sariputta una volta si è rivolto al Buddha e gli ha detto: tutti i Buddha e gli Arahant del passato hanno ottenuto la liberazione finale grazie al superamento degli inquinanti. And so by abandoning the five hindrances, and those hindrances being defilements of the mind that weaken understanding. E l'abbandono degli inquinanti, perché questi inquinanti sono degli stati della mente che vanno a impedire la comprensione, indebolirla. And all those Arahants, the Buddhas of the past, having firmly established the four establishments of mindfulness in their minds and realized the seven factors of enlightenment, and to realize the seven, realize the seven factors of enlightenment as they really are. E quindi tutti i Buddha, tutti gli Arhanti del passato hanno stabilizzato i quattro fondamenti della consapevolezza e hanno sviluppato questi fattori dell'illuminazione così come sono veramente. Mm-hmm. And so what you have certainly here is an abandoning of the hindrances, establishing oneself in the establishments of mindfulness, and then gradually the factors, the seven factors of enlightenment come or arise and then come to increase or to growth. Quindi qua abbiamo questi punti, cioè l'abbandono degli inquinanti, c'è lo stabilirsi nei fondamenti della consapevolezza e poi c'è lo sviluppo dei sette fattori di illuminazione che si accrescono sempre di più. And they all eventually lead to the realization of the Dhamma. E infine tutti questi conducono alla realizzazione del Dhamma. Now, to underscore this or underline this point even further, there's a often quoted certain short passage that says, "One who cultivates the four satipatthanas inclines and slopes towards Nibbana, just as the river Ganges inclines and slopes towards the ocean." Quindi per sottolineare ulteriormente questo punto viene detto chi sviluppa, si stabilizza nei quattro fondamenti della consapevolezza, la sua mente si inclina, fluisce verso la realizzazione del Nibbana, così come il fiume Gange si inclina e fluisce verso il grande oceano. And the same statement is there with regard to the seven enlightenment factors, so those two incline and slope towards Nibbana. E questa stessa cosa viene detta anche per i sette fattori di illuminazione che si inclinano e fluiscono verso il Nibbana. And with this, allow me to conclude wishing that what has been explained is helpful in the understanding of what wisdom is, what ignorance is, and their respective contributions to liberation, and then may the enlightenment factors arise and ultimately contribute to a realization of the Dhamma ideally during this very retreat here at Pianti Ciliegie. Concludo augurandovi che grazie a questo discorso la vostra comprensione di che cosa è la saggezza e cosa è l'ignoranza possa aiutarvi poi nella pratica, nello sviluppo dei sette fattori di illuminazione che speriamo che vi conducano presto alla liberazione anche qui a Pian dei Ciliegi. Ok. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu.